Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata. Una serie di operazioni legate alla casa si preparano a delle significative novità che entreranno in vigore dal prossimo 1 gennaio. Da quella data partono infatti alcune modifiche anche abbastanza articolate relative alle imposte di registro e catastali sulle compravendite, sui contratti d'affitto, ma anche sulle donazioni e sui conferimenti in società. La misura è prevista dal combinato disposto della vecchia legge istitutiva dell'IMU e dal decreto sulla scuola della quale abbiamo parlato appunto nei giorni scorsi. In che cosa consistono queste modifiche? Ci sono dei rincari sostanzialmente che graveranno su queste imposte, rincari che però riguarderanno determinati tipi di transazioni. Su chi gravano per la precisione e perché le modifiche delle quali parleremo questa mattina sono più vantaggiose invece per certe transazioni e più onerose per altre? Cercheremo di spiegarlo. Quello che possiamo dire è che, cancellato l'acconto IMU, è sempre la casa la fonte delle risorse per coprire interventi in altri settori. In ogni caso, oggi vi spieghiamo questo intervento che magari farà ripensare anche la data del rogito qualora siate pronti a comprare la vostra casa, o ripensare anche un contratto d'affitto o magari a rinviarne appunto la stipula. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi in diretta se volete avere dei chiarimenti su questa notizia che, per la verità, sui giornali è anche passata un po' in sordina. È stata molto valorizzata, questo va riconosciuto dal Sole 24 Ore nei pezzi scritti negli ultimi giorni da Angelo Busani, ma in ogni caso appunto degli impatti ci sono sulle compravendite e cercheremo appunto di capirne in che misura. Con noi questa mattina il notaio Enrico Maria Sironi, consiglio notarile di Milano. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, solo una precisazione, sì. Non parlo per il Consiglio Nazionale. Oggi parla per il Consiglio Nazionale del Notariato, naturalmente l'avrei precisato fra un istante, ma naturalmente essendo un notaio molto preciso mi certifica immediatamente il suo ruolo, il nome del quale parla questa mattina. Grazie per averlo fatto comunque. Grazie e benvenuto anche a Fabio Pucci, segretario generale dell'UPPI, l'Unione dei Piccoli Proprietari Immobiliari. Buongiorno Pucci. Buongiorno. Buongiorno e ben ritrovato anche ad Aldo Rossi, segretario nazionale responsabile dell'ufficio legislativo del SUNIA, il Sindacato Nazionale Unitario Inquilini ed Assegnatari. Rossi, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Allora, per i vostri interventi, ve lo ricordate molto bene, il numero con cui potete farlo è l'800 24 00 24. Ci potete anche scrivere al 349 238 6666, all'indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it. Ci potete scrivere su Facebook, ci potete scrivere su Twitter, ma prima di poterci scrivere vi faccio ascoltare cosa succede oggi in borsa. Giornata fiacca per i listini del vecchio continente, tutti negativi, ma miglioramento rispetto ad un'apertura che era stata un po' più forte in termini di rosso. Milano perdeva quasi mezzo punto percentuale come Madrid, adesso entrambi sono risaliti. Per Milano il calo adesso è dello 0,10%. Vendite su tutte le banche, neanche a dirlo, per lo spread che è tornato ad allargarsi, 257 punti base stamattina. Il peggior titolo è però Telecom, che perde 2 punti. Per le banche, Popolare dell'Emilia Romagna -2, Mediolanum -1,64, Intesa San Paolo -1,42, ribasso di 1 punto anche per Unicredit e Autogrill. Nomura promuove Mediaset, il titolo guadagna il 3%, Eni +1,50, A2A +1,38. Lasciamo subito la borsa, andiamo subito al tema di stamattina, rogiti e contratti d'affitto, come cambiano le imposte su questi atti. È passato solo qualche giorno, era l'inizio di questa settimana e gli italiani accoglievano con piacere il decreto scuola. Le parole del ministro Carrozza e del premier Letta sulla fine dei tagli all'istruzione, le assunzioni del personale, gli aiuti alle famiglie per l'acquisto dei libri di testo. Come già successo solo qualche settimana fa con la cancellazione dell'IMU sulla prima casa, non tutti però avevano pensato alle coperture finanziarie del decreto, che non riguardano soltanto l'aumento delle accise sugli alcolici, di cui si è parlato fin da subito. Il rovescio della medaglia, insomma, che questa volta riguarda anche le imposte di registro, ipotecaria e catastale, quelle che si applicano sulle compravendite immobiliari, sui contratti di affitto e sulle donazioni. È anche da qui che verranno recuperate le risorse necessarie al rifinanziamento della scuola. Le aliquote cambiano dal 1 gennaio 2014 con uno schema articolato, che rispecchia una casistica piuttosto ampia. In alcuni casi, infatti, queste imposte sono proporzionali, si applicano quindi delle percentuali. In altri casi, invece, sono previste delle cifre fisse. In entrambi i casi, con l'anno nuovo si assisterà a modifiche e cambiamenti. Per alcuni al rialzo, per altri invece in discesa. Le aliquote dell'imposta di registro relative ai trasferimenti di prima casa, ad esempio, passeranno dal 3 al 2%, con l'eccezione degli immobili di lusso. Le imposte ipotecaria e catastale, invece, passeranno dall'attuale misura proporzionale a un importo fisso di 50 euro per ciascuna. Aumenti netti, invece, per gli edifici vincolati per pregi storico-artistici, per quelli acquistati da imprese di trading per la vendita, ma anche, ad esempio, per le case comprate al di fuori dei confini nazionali. Tutti coloro che pagano l'imposta di registro fissa a 168 euro, poi, con l'anno nuovo la vedranno lievitare a 200. Un elenco che non aiuta a chiarirsi le idee. Ognuno dovrà capire, in base al proprio caso specifico, in che modo verrà interessato da queste modifiche. Una cosa è certa, e non è la prima volta che ce ne rendiamo conto in questi giorni. Quando la coperta è corta, c'è sempre qualcuno che resta al freddo. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi, oppure scriveteci al 349 238 6666. Probabilmente fra coloro che restano al freddo, come dicevamo nella nostra scheda, c'è Daniela che ci scrive: ma un rappresentante dei proprietari dei negozi affittati, per me unico reddito super tassato, non c'è, per me perso il lavoro, ci scrive l'ascoltatrice. Commenteremo anche il suo caso se lo riterranno opportuni i nostri ospiti stamattina. Daniela, intanto vorrei andare complessivamente a qualche commento su queste novità, che sono piuttosto articolate. Per la verità, adesso le regole riguardano e sono diverse appunto a seconda della transazione della quale siamo evidentemente protagonisti. Volevo andare subito ai proprietari immobiliari. Fabio Pucci, segretario generale di questa associazione che li rappresenta, Luppi, per chiedere appunto se teme più o meno impatti da queste novità. Tutto sommato, nelle transazioni tra privati, in realtà le notizie mi sembrano buone. Ma a me non sembrano così buone, nel senso che, a parte che vedo che ultimamente il legislatore, più che un legislatore, è una specie di chimico, di alchimista, nel senso che prevede sempre e comunque degli aumenti, frutto poi di alcune detrazioni che magari apparentemente ci sono. Mi riferisco naturalmente all'IMU sulla prima casa che viene tolta, ma poi in modo surrettizio viene reimmessa comunque sempre sulla proprietà, con una serie, diciamo così, di accorgimenti, quelli che voi avete denunciato poco fa, cioè vale a dire, adesso parliamo magari delle transazioni immobiliari, no? Dove c'è un panorama veramente molto problematico, dove c'è una distinzione tra l'acquisto di una casa di abitazione da un privato e l'acquisto di un'abitazione direttamente magari dall'impresa costruttrice. Sì. Qui c'è una differenza enorme. Sono trattate diversamente, sì. Sì, e questo è assurdo. Teoricamente, no, perché voglio dire, per quale motivo la stessa casa, lo stesso immobile viene comprato da un privato o viene acquistato da un'impresa, deve avere queste differenziazioni. Ma questo comunque significa certamente una ipotesi sempre e comunque di aumento. Quindi su questo vorrei non fare polemica, ci mancherebbe altro, ma insomma tutto questo per sorreggere il decreto sulla scuola, Sì, cioè, lo sappiamo. Il decreto sul lavoro, cioè ogni volta che si fa una riforma, giustissima per carità, ci mancherebbe altro, dove si pensa ad andare a prendere i soldi? Sul mattone. Sulla proprietà immobiliare. E questo è impossibile, veramente. Devo dire che forse questo legislatore dovrebbe cambiare un attimo rotta, ecco. Quindi insomma i proprietari non vedono completamente tutti i vantaggi da questa rimodulazione, che per certe transazioni, come dicevamo, è più vantaggiosa, ma complessivamente appunto in realtà sono imposte appunto che vanno ulteriormente a gravare sulla casa e su anche determinate tipologie di transazioni come quelle che appunto indicava Pucci. Non si capisce per quale motivo, se tra privati la tassazione è più vantaggiosa, se un privato compra una casa da un'impresa, in realtà invece le tasse applicate a questa transazione sono sono molto più alte. Allora, notaio Sironi, voglio fare un po' di ABC con lei, poi chiaramente sentiremo anche il punto di vista dei notai su queste novità che vi vanno un po' a modificare anche i rogiti che andrete a stendere e a stipulare appunto da gennaio in avanti. Qualche complicazione in più per voi? Intanto glielo chiedo e poi le chiedo anche che cosa sono queste tre tasse che gravano sulle transazioni, e così sgombriamo il campo anche da tutti quei pregiudizi che hanno molti cittadini che pensano che quando si fa il rogito devono pagare, che ne so, faccio una cifra a caso, 10.000 euro, quella è tutta parcella di notaio. In realtà la parcella del notaio è solo una minima percentuale di questa cifra, perché il notaio si fa garante proprio del trasferimento di queste tre imposte allo Stato: registro, catastale e ipotecaria. Mi spiega a quale titolo devono essere versate allo Stato queste tre imposte, notaio? Certamente, la ringrazio della domanda. Intanto magari fosse tutto onorario, per carità, non voglio piangere. Di fatto ultimamente è comunque difficile che il conto del notaio arrivi a quella cifra, perché da quando qualche anno fa, nel 2005, è stato introdotto il meccanismo della tassazione del trasferimento di abitazione sul valore catastale, non sul prezzo, mediamente le imposte sul trasferimento delle abitazioni sono scese e quindi difficilmente si arriva a cifre di quel tipo lì onnicomprensive, diciamo, dell'operazione. Ma al di là di questo, l'imposta di registro è un'imposta che si paga su qualunque atto venga stipulato, da notaio o meno, che sia soggetto alla registrazione, cioè che sia soggetto a questa formalità funzionale a dare una data certa per certi versi e comunque appunto a registrare l'atto. Una formalizzazione dell'atto che vale infatti anche per i contratti d'affitto, e sull'imposta di registro ci siamo appunto. E l'imposta di registro è modulata in alcuni casi in misura proporzionale, oppure laddove il legislatore ritiene che l'atto in questione non sia esplicativo di un trasferimento di ricchezza, in misura fissa. Oggi 168 euro. L'imposta ipotecaria è un'imposta che si versa in relazione alla pubblicità immobiliare. Quando si compie un atto per il quale la legge prevede la trascrizione o l'iscrizione nei registri immobiliari, si paga questa imposta ipotecaria. Anche qui, secondo i casi, è proporzionale o fissa. La terza ipotecaria. Imposta è l'imposta catastale. Ah, la catastale, mi scusi. Che si paga in relazione alla voltura catastale, appunto, quando c'è un trasferimento di proprietà o di altro diritto sugli immobili. Anche lì normalmente è un'imposta proporzionale dell'1% che diventa fissa nei casi agevolati. E le novità che sono state introdotte, che entreranno a regime dal 1 gennaio, per i notai sono chiare? Le novità sono in larga parte chiare, con alcune zone d'ombra che vanno precisate. Esatto, con alcune zone d'ombra. Intanto chiariamo: noi stiamo commentando il testo di un decreto legge che forse verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Quest'oggi non mi risulta che ancora sia stato pubblicato, quindi stiamo ancora ragionando su, chiamiamole, bozze. Secondo, l'operazione in realtà è stata definita nel 2011 in occasione del decreto sul cosiddetto federalismo fiscale, quello che aveva introdotto l'IMU. In quell'occasione evidentemente il legislatore aveva pensato di rimodulare la tassazione sugli immobili applicando imposte in alcuni casi sul momento statico, diciamo, patrimoniale, come è l'IMU, in altri casi sul momento dinamico, cioè sul momento del trasferimento della proprietà e dell'imposta di registro piuttosto che l'IVA. Oggi che cosa succede? Succede che si interviene modificando in alcune parti questo provvedimento datato 2011, che già era previsto entrasse in vigore nel 2014, e si interviene semplicemente prevedendo il pagamento di un'imposta ipotecaria e catastale in ragione di 50 euro in tutti i casi in cui si paga l'imposta di registro proporzionale. Al posto, per esempio, dei 168 che avevi indicato prima? È più complicata, ahimè. Sì, esatto, in alcuni casi, diciamo, era la norma del 2011 prevedeva che dell'imposizione fosse assorbita in un'unica aliquota per quanto riguarda gli immobili del 9% di registro e del 2% per la prima casa, oltre all'imposta ipotecaria e catastale secondo i casi fissa o proporzionale, e prevedeva che questa imposta minima fosse comunque di 1.000 euro ogni comprensiva. La situazione attuale è quindi definitiva sulla base anche del decreto che ha... La situazione definitiva è che il trasferimento immobiliare paga il 9% qualunque sia l'immobile, il 2% se è prima casa, e paga poi una imposta fissa, ipotecaria e catastale di 50 euro. Guardi notaio, io mi rendo conto che lei farà uno sforzo per essere chiaro immane naturalmente, e quindi mi immagino che tutti i notai all'ascolto avranno capito. Detto questo, adesso noi per capire meglio andremo nei casi concreti degli ascoltatori per capire che cosa cambia se appunto già per esempio un compromesso è stato stipulato e il rogito si fa a gennaio, che cosa succederebbe se invece il medesimo rogito venisse stipulato, ammettiamo appunto a fine ottobre, prima che tutte queste novità entrino in vigore. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande. Prima di sentire Aldo Rossi, a cui chiedo un minutino di pazienza, con lui affronteremo ed esploreremo il mondo degli affitti per appunto dargli uno spunto per la sua considerazione che sentiremo dopo la prima pausa. Gli faccio ascoltare già un punto di vista di un ascoltatore, Alex da Varese, che evidentemente credo stipula ricorrentemente contratti d'affitto e non si capisce appunto bene queste novità sulla tassazione come incideranno sulla sua situazione. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina, non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto. Non c'era il pavimento, non c'era il tetto, però è certo che abbiamo un po' di tasse da pagare quando rogitiamo e quando entriamo naturalmente nel pieno diritto di un immobile. C'è una rivoluzione in vista però per le imposte di registro, per l'imposta ipotecaria e per l'imposta catastale dal 1 gennaio 2014, e questo, come dicevamo in apertura, per il combinato disposto della legge che nel 2011 ha reistituito l'IMU e anche per effetto appunto del decreto che è recentemente intervenuto sulla scuola con un maxi pacchetto appunto di finanziamenti da 400 milioni che verranno coperti attraverso questa rimodulazione di queste tasse. L'ho detto, ho tentato di dire tutto quanto in maniera molto semplice. Per la verità alcune transazioni diventano più vantaggiose, ma la situazione è estremamente complicata, come tentava di spiegarci anche in apertura il notaio Enrico Maria Sironi. Con noi stamattina anche Fabio Pucci, responsabile appunto dell'UPI, Unione Piccoli Proprietari Immobiliari. E adesso sentiamo invece che cosa cambia per l'imposta di registro che si paga sui contratti d'affitto. Aldo Rossi, segretario nazionale e responsabile dell'ufficio legislativo del SUNIA, il sindacato degli inquilini. Segretario, buongiorno. Le faccio sentire la domanda di Alex da Varese, così almeno abbiamo un quadro completo da commentare. Alex, buongiorno. Buongiorno a voi. Ho ereditato dai miei una casa che affitto regolarmente. La dichiaro in dichiarazione dei redditi, il pagamento viene fatto con un trasferimento bancario. La mia domanda è un po' provocatoria, vabbè, devo pagare 67 euro o pagavo quando ho un nuovo inquilino e quando l'inquilino se ne va, ma la domanda che faccio, soprattutto ai nostri signori politici che continuano a mettere le mani nelle nostre tasche, il reddito che mi deriva dalla casa è un reddito. Perché lo devo, tutti gli anni devo pagare l'imposta del registro del 2%, l'1% io, 1% l'inquilino? Certo, soprattutto allora, se ha un contratto stabile, non conto è pagarlo magari all'inizio del contratto che va registrato. Ma, quello che ho trattato di registro, qui non se n'è andato, ho dovuto pagare 67 euro per la riduzione. Ma sul canone di, perché tutti gli anni devo pagare entro 30 giorni, Da quando è stato iniziato il 2% di registrazione del contratto dell'affitto sul canone di affitto? Quello è un introito che mi entra. Ma allora che è tassato, ma allora tassiamo anche i contratti di lavoro ogni anno. Alex, che differenza c'è? Lo so, però no, ragazzi, no, guardi, ha ragione, cioè io le posso dire che condivido pienamente il suo punto di vista. Aldo Rossi, andiamo a lei. Allora, la registrazione del contratto di affitto effettivamente si paga tutti gli anni, poi in relazione anche al rapporto che c'è tra proprietario ed inquilino, qualche volta questa imposta si suddivide fra i due, mediamente si fa così, qualche volta è tutta a carico di uno, qualche volta tutta a carico dell'altro, ma perché si deve pagare tutti gli anni? Perché c'è una legge che lo prevede. Comunque volevo chiarire che l'applicazione della cedolare secca, per fortuna, sì, esime ci arriviamo, però comunque la cedolare secca è una novità. La cedolare secca è che certamente in fase di avvio non ha avuto tutto quel successo che si pensava. Per quello che invece è il tipo di riforma o di accorgimenti che sono stati applicati in questi giorni, anch'io attendo di leggere quella che è la pubblicazione in Gazzetta, certamente. Posso dire che dal punto di vista delle locazioni c'è un elemento di preoccupazione per quello che riguarda la registrazione in quota fissa dei 67 euro per cifre più basse, che sarebbero risultate più basse applicando il 2%. Questo è un dato che attendiamo di vedere se aumenta anche questa quota. Poi c'è da dire che la registrazione in quota fissa dei 168 euro che dice diventano 200 colpirà i comodati, e quindi un'altra parte che magari anche di cessione di alloggi anche in ambito familiare, diciamo, sì, certo. Esattamente. Poi c'è il problema, anche questo vogliamo leggerlo perché ancora non c'è chiarezza su questo, di quelle che sono le risoluzioni dei contratti e quelle che sono... Anche lì mi pare che paga fino a questo momento un'imposta di una sessantina di euro, 70. Quello che riguarda le eventuali volture o subentri, per esempio di inquilini studenti che cedono col consenso del proprietario il contratto ad un'altra persona. Ecco, abbiamo una serie di questi dati. Voglio considerare anche un altro aspetto, che secondo me c'è una massima incertezza per quello che riguarda la fiscalità immobiliare in questi giorni, perché anche l'IMU si parla di soppressione, ma per adesso abbiamo avuto la cancellazione della prima rata. C'è il problema della seconda e c'è il problema del 2014. Poi mettiamoci mettiamoci Rossi la service tax. I nuovi elementi stanno indubbiamente confondendo una situazione. Non dimentichiamo. Sì, dove è finito Rossi? Qua c'è, oggi col telefono abbiamo un sacco di problemi, ogni tanto ci succede. Vabbè, significa che stava dicendo qualcosa probabilmente che è stato necessario censurare. Sto scherzando, naturalmente adesso lo peschiamo, ma ritorniamo al tema centrale del nostro programma per capire appunto quali ricadute temono i nostri ascoltatori nelle transazioni che stanno evidentemente preparando anche con dei professionisti appunto che li stanno assistendo. Ezio D'Ancona, buongiorno all'800240024. Ci dica. Buongiorno, io sto vendendo la vecchia casa di mia mamma, che ce l'ho con proprietà con mio fratello. Sì. Siccome era una vecchia casa popolare, c'è un vincolo fino a ottobre con il vecchio istituto che praticamente me l'ha venduto. Va bene, quindi lei diciamo... Praticamente mi conviene venderlo, io posso venderlo da ottobre, mi conviene sollecitare l'inquilino perché già me l'ha chiesto l'appartamento. Farlo a ottobre o farlo a gennaio? Allora, cioè, quindi, quanti costi certo. Più c'ho per fare questa cosa? Ezio, aspetti lì, notaio Sironi, da quello che capisco io, in realtà questa domanda forse dovrebbe fare il futuro proprietario più che lui che vende. Ecco, Esattamente, perché in realtà per il nostro ascoltatore Ezio non cambia nulla. L'imposta di registro non è a carico di chi vende un immobile. Chi vende l'immobile, nel caso, secondo i casi, non è la situazione di Ezio da quello che ci ha detto, pagherà un'imposta sulle plusvalenze in sede di dichiarazione dei redditi. Per l'acquirente bisogna vedere, probabilmente l'acquirente di Ezio potrebbe avere un vantaggio ad aspettare il 2014, perché col 2014 l'imposta di registro sulla prima casa scende dal 3 al 2%, l'ipotecaria da 168 a 50. Questo è proprio un caso... Consideriamo però una cosa, mi rubo solo minuto per dire questo concetto, che noi stiamo parlando, come dicevamo prima, di un intervento di modifica di una norma che deve ancora entrare in vigore. Non abbiamo quindi me lo lasci dire, nessuna certezza che non intervenga un'ulteriore modifica stiamo, di qui al facendo, primo gennaio. Che stiamo facendo una puntata inutile? No, questo no, perché è sempre bene rifletterne, anche perché serve a ragionarci. Esatto. Ma sappiamo anche che in Parlamento si sta discutendo in questi giorni la cosiddetta delega fiscale, ecco. Cioè un provvedimento che demanda al governo di rivedere complessivamente il sistema tributario. Quindi insomma ci stiamo davvero muovendo un attimino in un territorio tutto da esplorare. Quindi dare un consiglio sull'aspettare potrebbe essere da valutare. Tra l'altro poi ci sono tutti quanti i passaggi parlamentari, un decreto legge che diventa legge appunto ha bisogno anche di tutta una serie di approvazioni tra Montecitorio e il Senato, e quindi io mi chiedo, Fabio Pucci, torno ai piccoli proprietari, qualora voi aveste la possibilità di intervenire in una di queste rimodulazioni appunto che sono state prodotte dal combinato disposto di due leggi diverse, una del 2011 e una praticamente dell'altro ieri, dove vorreste intervenire? Bella domanda. A parte il fatto che questa trasmissione mi sembra molto utile. La ringrazio. Almeno perlomeno. No, non è piaggeria. Noi abbiamo. No, la ringrazio. È che vogliamo tenere l'attenzione viva sulle cose che cambiano. No, il problema fondamentale è che comunque ciò che disturba un po' la piccola proprietà immobiliare è che tutte queste attenzioni vengono sempre fatte sull'appartamento, sulla casa, sull'immobile, e questo diciamo un po' il problema di tutta la proprietà immobiliare, la quale è non solo vessata, perché lo abbiamo visto, le do un dato, la piccola proprietà immobiliare l'anno scorso ha pagato 5 miliardi di tasse, non mi sembra molto poco, insomma, solamente la piccola proprietà immobiliare. E tenendo presente poi che sono crollate, Rossi lo saprà meglio di me, sono crollate quelle che sono i contratti di locazione al 30%, perché ci sarà una motivazione, non è che gli appartamenti non sono sul mercato, è che gli appartamenti purtroppo rimangono sfitti, per precisare, vengono tenuti sfitti, ma pure questo la piccola proprietà immobiliare deve pagare, anche se l'appartamento è sfitto, anche se viene ormai configurata la personalità del piccolo proprietario come l'evasore per eccellenza, però stranamente quando c'è da fare una modifica, quando c'è da fare una riforma su una serie di chi viene colpito è sempre la piccola proprietà immobiliare, certo, quindi questo campanello che voi tenete acceso per me è importantissimo e rilevantissimo. Poi certo sul tecnicismo ha ragione il notaio, stiamo parlando certamente di un decreto legge, ma comunque un decreto legge che mi pare che ieri è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, certamente con tutto l'iter parlamentare che questo decreto legge deve avere, e con tutte le idee che il governo deve mettere sul tavolo per questa riforma. Però voglio dire, ma sarà il momento di arrivare anche a una rivalutazione di questa imposizione fiscale sulla proprietà immobiliare? Per me, io ritengo che sia un grosso bavaglio anche per lo sviluppo del mercato immobiliare. No, tra l'altro mentre da una parte poi tra l'altro il governo vara anche tutto un pacchetto per rilanciare il settore dei mutui, dall'altra parte rende sempre più confuso invece il panorama della tassazione che scoraggia anche qualunque persona. Io non dico poi che tutto il mercato sia fatto solamente da acquisti, da compravendite tra privati, perché ci sono compravendite anche di natura diversa su cui invece appunto la tassazione nuova graverà in maniera importante. Vi chiedo un minuto di pazienza perché adesso abbiamo un'altra pausa, poi andrò a sentire il caso dell'ascoltatore che voleva comprare casa in Portogallo, lo abbiamo perso, vediamo se lo recuperiamo insieme ad altri. Il tema è capire quali transazioni invece vengono particolarmente colpite. Io ne vedo una qua nello schema che ha preparato per il Sole 24 Ore di questa mattina il notaio Angelo Busani. Se un privato vuole vendere un ufficio e questo ufficio viene acquistato per esempio da un'organizzazione onlus, l'imposta di registro varia dai 168 euro al attuali, al 9% della transazione, che qui si ipotizza sia di 100.000 euro, va a pagare 9.000 euro. Pensate che balzo pazzesco. Quindi se tutta l'operazione inizialmente costava 504 euro, adesso va a costare 9.100. Quindi ci sono veramente delle ricadute in certe transazioni veramente importanti. Voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace, io voglio andare a casa. In pace sì, ma state tranquilli che le novità sulla tassazione vi inseguono comunque. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande, se volete intervenire in diretta. Adesso stiamo cercando di recuperare al volo un ascoltatore che mi interessa molto, perché è pronto a fare il rogito, ma già naturalmente, come dire, è in fibrillazione, perché alla luce delle novità che stiamo raccontando questa mattina sta cercando già di quantificare un ipotetico risparmio qualora lo facesse slittare questo rogito. Intanto invece andiamo a Sergio D'Alecco, che vuole comprare casa in Portogallo. Sergio, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Ha trovato una bella occasione? Sì, diciamo che io e mia moglie siamo vicini alla pensione, quindi abbiamo sempre avuto il sogno di avere un appartamentino sul mare. Siamo stati in Portogallo e ci sono veramente... È meraviglioso, sì, davvero. In Algarve, rispetto a noi, i prezzi sono un terzo, no? E quindi ci stavamo ragionando sopra. Io chiedevo appunto ai vostri esperti, cosa comporta questo anche rispetto alla legislazione precedente, eccetera? Mm-hmm. Quanto dovrò pagare? Cosa mi costa? Tutte queste cose. Allora, Sergio, fermo lì. Notaio Sironi, intanto Sergio va ad abitare in un altro paese dell'Unione Europea. Chiaramente, se dovrà rendere noto al fisco italiano, ovviamente, che diventa proprietario di questo appartamento in un altro paese, se lui mantiene chiaramente il suo domicilio fiscale qua in Italia, dovrà continuare appunto ad informare il fisco italiano sul quadro RV della dichiarazione dei redditi di questa appunto transazione. Non lo so, ma ai fini delle novità che stiamo raccontando questa mattina, un'eventuale compravendita in Portogallo sarà colpita? Eventuale compravendita in Portogallo dipende. E cioè, se il nostro Sergio stipulerà l'atto di acquisto in Portogallo, si applicheranno le imposte previste in Portogallo per il trasferimento di proprietà. Se lui dovesse invece stipulare l'acquisto della casa in Portogallo presso un notaio italiano, l'atto viene registrato in Italia, e mentre fino ad oggi, fino al 31 di dicembre, la legge di registro prevede che per il trasferimento di immobili all'estero si paghi la tassa fissa di 168 euro, dal 1 di gennaio, se si facesse qui un atto relativo a un immobile all'estero, si pagherebbe il 9%. Ecco, quindi ci sta già dicendo che gli conviene farla là. Ahimè sì. E questo è proprio uno degli effetti perversi, se vogliamo usare questo termine, di questa modifica legislativa, che, come dicevamo, risale al 2011. Beh, diciamo che magari potrebbe avere l'obiettivo di scoraggiare l'acquisto di una casa in un altro paese e magari comprarla qua, però vabbè. Questo sì, ma il concetto che volevo introdurre è più ampio. Oggi noi, con imposta di registro, abbiamo una serie di aliquote diverse o di tassazione fissa in relazione al tipo di operazione che viene fatta, ed una serie di operazioni che sono agevolate, come questa dell'acquisto dell'immobile all'estero, piuttosto quella che citava lei del trasferimento a una onlus, ma anche dell'acquisto da parte di un ente pubblico. L'acquisto da parte di un ente pubblico oggi paga un'imposta fissa. Con la nuova normativa dal 1 di gennaio, tutto viene unificato in un'unica aliquota del 9% e vengono cancellate tutte le agevolazioni fiscali, ecco, tranne quella sulla prima casa. Quindi il peso è ancora maggiore del 9%, diciamo così, un po' a spanne. Esattamente. Certo che passare da 0 a 9% mi sembra un balzo davvero rilevante, un bancomat davvero, la casa la possiamo considerare. Poi, per carità, capisco che questa percentuale va applicata a transazioni di un certo tipo, su edifici di un certo tipo, su case di un certo tipo, però insomma non è che ci siano poche in Italia. Andiamo ad altre domande di altri ascoltatori. Donato da Salerno, buongiorno. Donato, buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno. Sì. Buongiorno, volevo sapere se cambiava il regime fiscale per quanto riguarda gli affitti di una casa turistica, un contratto turistico, quello che dura meno di 30 giorni. Sì, Donato, grazie mille per la domanda. Vediamo un po' se Aldo Rossi ne sa qualcosa, se segue anche questo mercato, seppure devo andare magari a Pucci o al notaio Sironi. No, ma indubbiamente il problema degli affitti turistici si ricollega al discorso che facevo prima rispetto all'entità, cioè voglio dire, qui abbiamo un registro che comunque il 2% sarebbe ove fosse registrato, cioè però è una norma che prevedeva se questa quota va al di sotto dei 67 si riconduceva a quella somma là. Non mi pare che il decreto faccia esplicito riferimento alla registrazione in quota fissa dei 67 relativamente alle locazioni, si riferisce invece alla registrazione dei 168 euro che guardava una serie di atti per cui non c'era la tassazione di registro percentuale, quindi non ritengo che cambi la situazione. Niente, rispetto alle locazioni per le case appunto a destinazione turistica, ad uso turistico. Andiamo a Riccardo da Pordenone invece, buongiorno, perché qua abbiamo un'altra situazione di proprietà un po' complicata e anche Riccardo è caduto. Allora Pietro, qua la questione è questa: o non li prendiamo più su questa linea, perché mi pare che stamattina o non lo so che cosa, tutti si lanciano nel fare le loro domande e poi improvvisamente perdono il telefono. Anche Lorenzo, che si era prenotato, poi ci ha dato un numero sbagliato, ma era proprio il caso che io volevo affrontare. Questo ascoltatore milanese sta acquistando una casa, ha già fatto il compromesso, dovrebbe rogitare a dicembre, se sposta a gennaio potrà risparmiare. Allora, se la compravendita viene tra privati, ritengo di sì. Detto questo, notaio Sironi, se appunto un bel numero di clienti adesso le venisse a fare questa richiesta, magari avesse già in programma di fare tra novembre e dicembre una cinquantina di rogiti e tutti le vengono a chiedere di spostare a gennaio, lei che cosa fa? Li scoraggia o appunto li invece, come dire, accompagna in questa scelta? Io valuto situazione per situazione, verifichiamo in base ai dati che abbiamo presenti cosa è la cosa più utile da un punto di vista fiscale per il cliente, gli rappresento la situazione e il cliente farà la sua scelta. Certo, poi dipende anche dai proprietari però che vendono, perché esatto, se questi si impuntano hanno se tutto. Se tu hai un preliminare con un termine al 30 di novembre dovrai certamente essere d'accordo con il venditore per poter spostare là il termine per l'adempimento. Certo. Magari il tuo venditore deve anche lui riacquistare, anche lui un preliminare che scade e quindi le cose si possono complicare in quella situazione. Evidentemente sì, per cui giustamente il notaio suggerisce caso per caso, faremo tutte le valutazioni. Riccardo da Pordenone, rapidissimo, grazie. Sì, noi abbiamo ereditato una casa e siamo tre fratelli, no? E di cui usufruisce solo uno. Sì. E volevo capire per fare una donazione quanto paghiamo. Cioè praticamente i suoi fratelli vorrebbero fare questa donazione a lei per farla continuare a vivere lì? Capito? No. Io voglio donarla, non mi interessa averla la casa, tanto ci abita lui, quindi. Ah beh, è un altro fratello che abita lì, mi scusi, avevo capito che fosse lei. Notaio Sironi, anche qui ci serve il suo supporto. Sì, allora da questo punto di vista io non voglio entrare nel merito del atto di donazione, perché apriamo un altro capitolo, la donazione tra fratelli, se il donante ha dei figli, può dare dei problemi in prospettiva futura sulla possibilità un domani di rivendere tranquillamente questo immobile. Ammettiamo che non ci sia questa circostanza. Ma trascuriamo questo, sulla donazione direi che non cambia nulla se non l'imposta fissa che passa da 168 a 200, quindi ecco. Sulla donazione loro pagheranno fino a 100.000 euro, due tasse fisse ipotecarie catastale. Sopra i 100.000 euro pagheranno un'imposta proporzionale del 4% di donazione più le due tasse fisse. Benissimo, allora quando avremo questo benedetto decreto pubblicato in Gazzetta, magari entro qualche settimana ritorniamo su questi temi. Lorenzo da Milano ci ha richiamato, abbiamo risposto. Lorenzo può procrastinare questo rogito se il proprietario con cui ha firmato il compromesso è d'accordo. Grazie a Fabio Pucci, Enrico Sironi, Aldo Rossi, torniamo lunedì, oggi venerdì, questa volta non mi sbaglio. Buon weekend a tutti.